vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 maggio, il sole in regione sorto alle 5.50 e tramonterà alle 20.19. Giovedì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. Si stanno risvegliando in questi giorni e pianificano una nuova stagione di danni. Stiamo parlando delle cimici marmorate asiatiche che quest'anno avranno di fronte un nemico particolarmente agguerrito, le vespette che gli parassitizzano le uova. All'ERSA tutte le carte sono quasi a posto per iniziare i lanci in natura di questi insetti. Ne parliamo nel primo servizio cui seguirà il corsivo di Enos Costantini, che invoca coerenza con i discorsi che piace fare a tanti in materia di difesa e sostenibilità ambientale. Ci sono poi due nuovi bandi pubblici per ottenere sovvenzioni per l'acquisto di macchine e la manutenzione di fabbricati agricoli. Per la rubrica dell'olio percorriamo le fasi fenologiche della pianta dell'olivo, ovvero tutti i passaggi vegetativi che si susseguono ogni stagione. A seguire l'interessante iniziativa sorta nell'ambito dell'Università di Udine in tema di difesa delle biodiversità e degli animali in via di estinzione nella nostra regione. Per lo spazio che dedichiamo ai giardini ci addentreremo nelle suggestioni dei prati stabili del Parco del Beato Bertrando tra i comuni di Martignaco e Pasean di Prato. In chiusura, come di consueto, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana di Vita nei Campi. Si stanno risvegliando in questi giorni e si preparano ad una nuova annata. Stiamo parlando delle cimici marmorate asiatiche che tanta distruzione hanno fatto gli altri anni e quest'anno si vuole in qualche maniera combattere meglio. Come? Ne parliamo con Giorgio Malossini, tecnico del servizio fitosanitario dell'ERSA. Quali sono le novità nella lotta contro la cimice? Anche quest'anno, come sempre dal 2014, si sta facendo il monitoraggio di queste cimici. Si stanno vedendo attraverso le catture delle trappole un risveglio di questi insetti. Cosa si sta facendo? Il filone principale, ormai si è visto dopo anni che la lotta chimica non è una soluzione, ma è solamente un aiuto che si può fare, ma non è una soluzione, si sta percorrendo la strada della lotta biologica. Questa lotta biologica si farà proprio attraverso queste micro vespette, che sono veramente degli insetti piccolissimi, che si chiamano Trisolcus japonicus, diciamo parassitizzano le uova e hanno un'efficienza molto elevata. Non sono autoctoni, quindi non sono presenti normalmente, anche se da qualche parte in regione d'Italia si sono iniziati a vedere, però in Friuli Venezia Giulia ancora non sono presenti. Sono già stati fatti degli stress test per capire se potessero in qualche maniera essere pericolosi, pare che così non lo sia. Sì, è stato fatto un'analisi del rischio, una valutazione del rischio proprio a livello del CREA, quindi l'Istituto Centrale del Ministero dell'Agricoltura, e questa valutazione del rischio ha portato dei risultati positivi. Questa valutazione del rischio dovrà essere allegata a una domanda che le regioni faranno proprio per poter fare questi lanci in quest'annata. Quali i tempi e quali i luoghi di questi lanci? I tempi bisogna aspettare ovviamente che ci siano le uova, perché questi insetti parassitizzano le uova della cimice. Le uova della cimice inizieranno a essere presenti normalmente sul territorio tra la fine di maggio, i primi di giugno, un po' di più dalla metà giugno in poi. Poi dipende anche dalla stagione ovviamente. E quindi noi si prevede di fare questo lancio proprio a partire dalla metà di giugno, dove assolutamente si faranno a tappeto su tutta la regione, su diversi punti. Importante sottolineare che non verranno fatti questi lanci all'interno dei frutteti, perché dove ci sono i trattamenti sarebbe difficile che questi poi si stabilizzano, ma verranno fatti nei corridoi ecologici, quindi nelle siepi, nei boschetti, anche in vicinanza di frutteti. Intanto le cimici hanno passato un buon inverno, senza freddo. Il freddo è l'ultimo dei problemi delle cimici, in quanto resistono anche a meno 18 senza problemi. La mortalità invernale è comunque sempre elevata. Adesso stiamo verificando con i primi monitoraggi, i primi movimenti che ci sono attorno soprattutto alle abitazioni, alle case, ai capannoni, qualcosa anche sui bordi dei frutteti. Al momento le catture sono ancora basse. Ecco, a questo proposito volevo ricordare che c'è sul sito dell'ERSA, è presente il bollettino settimanale dove vengono individuati questi punti di monitoraggio e si possono vedere le catture ogni settimana. Senza tanti giri di parole, oggi Enos Costantini nel suo corsivo ci dice come, se vogliamo essere coerenti con i nostri bei discorsi e propositi, si dovrebbe sovvenzionare pubblicamente solo l'agricoltura biologica, una scelta per evitare ulteriori catastrofi prossime venture. Sentiamo il perché. Il riscaldamento globale, attuale, reale e fattuale, avanza in modo esponenziale. Solo qualche allocco in friulano Cius non vi crede. La maggioranza delle persone lo rimuove perché ha sempre altro di più immediato cui pensare. Quando gli stati un tempo sovrani si comportano in modo infantile e dicono comincia tu con le politiche ambientali, vai avanti tu che poi forse io ti seguo. Eppure qualche provvedimento efficace sarebbe facile da introdurre, per esempio proibire i voli aerei che come noto producono terribili quantità di gas a effetto serra. Ma no, non si chiede di impedire i movimenti delle tanto amate squadre di ballon nei loro tornei internazionali, non si sa mai che l'Udinese giochi al Maracanà, si chiede di impedire i voli delle verdure, che come noto sono formate quasi soltanto da acqua, la lattuga 95%, l'asparago 92%, eccetera. Che debbano arrivare in Europa dalla Florida o dalla California o dal Perù, proprio non ci va giù. Riscaldare il pianeta per portare in giro acqua nella plastica e nei frigoriferi è illogico e coi tempi che corrono è demenziale. Tale proibizione scontenterebbe la grande distribuzione, ma per l'orto Europa sarebbe una occasione. Quando le vitamine si sa che soffrono di mal d'aereo e di jet lag, quindi non salgono su quei velivoli. E questo sarebbe solo un provvedimento facile. Vediamone ora uno meno facile, ma tale da mettere fine a ogni ipocrisia. Le sovvenzioni all'agricoltura, e sono fior di miliardi di pubblico denaro, dovrebbero andare soltanto ad aziende che praticano l'agricoltura biologica. Apriti cielo, sindacalisti, giornalisti, piazzisti, genetisti griderebbero la fine del mondo, del loro mondo. Forse il pubblico che sborsa denaro pubblico, cioè il contribuente che contribuisce al sostegno dell'agricoltura, preferirebbe per sé e per i nipoti un mondo senza catastrofi, climatiche e non climatiche, prossime venture. E se non c'è il coraggio di queste decisioni politiche, non venite più a raccontarci di sostenibilità, di accordo di Parigi, di COP33, di koala morti tra le fiamme, di distruzione ambientale che favorisce le pandemie. Abbiate la dignità di gettare la maschera. Cercando di guardare oltre l'emergenza Covid-19, oggi riprendiamo a parlare di programma di sviluppo rurale. Vediamo le novità con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Siamo ormai all'ultimo anno della programmazione comunitaria 2014-2020 e, come previsto dal piano finanziario del PSR, la Regione sta aprendo gli ultimi bandi con i pochi fondi che restano. Sul bollettino ufficiale della Regione 17 del 22 aprile scorso sono stati pubblicati due bandi ad accesso individuale per la misura 411, per intenderci quella che sostiene gli investimenti in fabbricati, macchine e attrezzature. Come mai due bandi sulla stessa misura? Un bando è riservato esclusivamente a investimenti su macchinari e attrezzature. È concepito nell'ottica della maggiore semplificazione possibile in termini di procedure amministrative e controlli, in modo anche da liquidare le imprese il più velocemente possibile. Per esempio, all'atto della domanda non sarà più necessario presentare una terna di preventivi in concorrenza, in quanto il costo massimo ammissibile a contributo sarà determinato sulla base di costi standard predeterminati. Il database con i prezzi delle macchine è disponibile sul portale web della Regione nelle pagine dedicate al PSR. Le domande dovranno essere presentate entro il 21 luglio prossimo. E l'altro bando che cosa riguarda? Il secondo bando invece è più simile a quelli del 2016, riguarda investimenti su immobili eventualmente combinati con macchinari e attrezzature. Anche qui le procedure prevedono alcune semplificazioni. Per i costi delle attrezzature vale quanto già detto. Sono poi stati definiti dei prezziari anche per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudi. Tutto questo dovrebbe contribuire a velocizzare la rendicontazione, i controlli e le liquidazioni. Tra l'altro è importante segnalare che i criteri di selezione assegnano priorità ai progetti immediatamente cantierabili, cioè quelli che alla data di presentazione della domanda dispongono già di tutte le necessarie concessioni, permessi e autorizzazioni. In ogni caso la scadenza del bando è fissata al 19 ottobre. Quante sono le risorse disponibili? Allora, tra fondi propri del PSR e fondi aggiuntivi regionali, la dotazione finanziaria è di 1.520.000 euro per il bando riservato alle attrezzature e 2.950.000 euro a quello per investimenti su fabbricati e attrezzature. Non è molto, ma non si esclude che possano arrivare altre risorse, visto che siamo ormai a fine della programmazione e potrebbero emergere economie anche da altre misure. Ricordo poi che i contributi previsti dall'intervento 411 sono cumulabili con il premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura della misura 611, sulla quale ci sono altri 800.000 euro e il cui il bando scade il 3 giugno. Con Ennio Scarbolo, che ci cura la rubrica dell'olio, oggi parliamo delle fasi fenologiche dell'olivo, ovvero di quella roadmap che ogni anno marca la vegetazione della pianta e del suo frutto. Se noi digitiamo in internet stadi fenologici dell'olivo, ci compaiono 15 foto con una breve descrizione delle principali fasi fenologiche della pianta di olivo. È il nostro alfabeto per poter riconoscere ed avere un linguaggio comune. L'olivo è un sempreverde, ma con i primi freddi autunnali passa alla fase stasi vegetativa, a meno che non si abbia esagerato con concimazioni azotate tardive. Ricordate che abbiamo detto di non concimare con azoto oltre il mese di aprile? Se lo facciamo, il nostro olivo continua a vegetare fino ad autunno inoltrato, rendendo la pianta molto sensibile al freddo. Alla stasi vegetativa o riposo invernale segue il germogliamento, che avviene quando, per un certo periodo, circa 10 giorni, le temperature minime salgono a 15 gradi. Siamo nel mese di marzo. Spesso si verifica un ritorno di freddo stagionale. Il germogliamento rallenta, ma non si ferma e continua fino ai primi caldi di luglio. Questi brevi periodi di freddo potrebbero danneggiare la differenziazione delle gemme e compromettere la fioritura. Nei nostri areali, da metà aprile fino a fine giugno, abbiamo 7 fasi fenologiche che si sovrappongono a quella del germogliamento. In sintesi, la mignolatura, piena fioritura e allegagione sono le fasi più importanti e delicate dell'anno. Errori da parte nostra, concimazioni foliari sbagliate, potature tardive, trattamenti indiscriminati o eventi atmosferici avversi, grandinate, periodi piovosi intensi, prolungati, temperature molto alte in fioritura, danneggiano le fasi di impollinazione e successiva allegagione e promettono l'intera stagione produttiva. Il periodo di fioritura dell'olivo coincide con quello della vite. Si possono verificare fioriture precoci a fine maggio, come è successo nel 2018, o come è successo nel 2003 e 2019, piena fioritura la prima decade di giugno con temperature oltre 30 gradi. Il polline si bruciava ed era sterile. A fine giugno, finita la fase di allegagione, inizia l'accrescimento frutto. In luglio, indurimento nocciolo. Nella nostra regione i climi nei mesi di luglio e agosto sono molto caldi e secchi, salvo locali temporali che portano un po' di fresco. Gli accrescimenti vegetativi si fermano e gli elaborati linfatici sono a completa disposizione del frutto. Con l'indurimento del nocciolo si verifica uno strano fenomeno. Il nocciolo emana un odore che solo la mosca oleare lo sente ed è indicativo per la deposizione dell'uovo all'interno dell'oliva. Tutte le fasi sono influenzate dal clima. A fine agosto e inizio settembre si verifica ogni anno una settimana con un significativo abbassamento delle temperature, tanto da sembrare che l'estate sia finita. Temporali violenti, grandinate, segue un periodo soleggiato ma molto meno caldo. Dopo il periodo di fermo vegetativo estivo riprendono gli accrescimenti vegetativi. Ricordate la potatura verde? A fine settembre ci avviamo nella fase di inizio invaiatura. In alcune cultivar maurino, leccino, pendolino, le olive, quelle più esposte al sole, iniziano a cambiare colore. Non sono ancora mature. Questa fase dura fino a maturazione fisiologica che avviene dal 10 ottobre a fine mese. È il momento della raccolta. Non tutte le cultivar di olive diventano nere o scure. La cultivar ascolana e bianchera rimangono verdi anche quando sono mature. Lo si capisce schiacciando qualche oliva con le dita. Se esce una soluzione acquosa biancastra, è olio emulsionato. Buona raccolta. Anche l'Università di Udine ovviamente ci si occupa di biodiversità e della sua tutela. Oggi ne parliamo con il dottor Andrea Favaro, medico veterinario specializzato in acquacoltura, che si è laureato con il professor Edo D'Agaro, che insegna biodiversità animale. Voi avete fondato addirittura una associazione. Quali le sue finalità? L'associazione si chiama AMBAV, ovvero Associazione Nazionale Biodiversità Animale e Vegetale. Lo scopo principale è quello di studiare e tutelare le varie specie, sia domestiche che selvatiche, che meritano un'attenzione in più. E lo scopo nostro è anche quello di, appunto, oltre che di studiare, di attuare tutte quelle attività atte a tutelarle, a proteggerle da una eventuale estinzione e divulgare la divulgazione scientifica dei nostri risultati. Ecco, come nasce questa associazione? Allora, l'associazione nasce appunto come uno spin-off dell'Università di Udine, in seno direi all'Università di Udine, tra un gruppo di studenti, dei docenti universitari e dei liberi professionisti. Nasce appunto anche alla grossa collaborazione, al grosso contributo del professor D'Agaro, che ha seguito la mia tesi sulla trota marmorrata e sulla trota fario a ceppo mediterraneo. Quali sono le principali specie che state studiando, oggetto del vostro interesse? Allora, ci sono la rana di lataste, che è un anfibio, poi il gambero autoctono, ma anche tra gli animali domestici la pezzata rossa friulana, il cavallo norico, poi l'ermellinata di Rovigo, che è un volatile, un uccello, e la robusta lionata. Con chi collaborate? Cercheremo collaborazioni con i vari ordini e collegi professionali, poi con allevatori che sono disposti a custodire questi animali e a studiarli, anche appassionati per quanto riguarda gli animali selvatici, insomma, e anche con eventuali enti di natura regionale o statale, insomma. C'è una specie, una razza, un animale in particolare rischio di estinzione qua da noi? Sì, personalmente non lo conosco anche molto da vicino, è la rana di lataste, che è una rana intanto autoctona, vive nel territorio dal Veneto fino alla Venezia Giulia e anche in Croazia, in Slovenia. È una rana, diciamo, di terra, una rana molto massiccia, che ha bisogno di un habitat particolare. È appunto un endemismo della nostra terra, delle nostre terre, diciamo, di Veneto e Friuli, così come la trota marmorrata. La sua causa appunto di rarefazione fondamentalmente è la mancanza di territorio abitabile, insomma, e quindi la sottrazione del territorio da parte delle attività umane. Oggi con Franca Merluzzi per la rubrica dei giardini andiamo nei prati stabili del Parco del Beato Bertrando, parco che si estende in due comuni, Martignacco e Pasian di Prato. La meta di oggi non è un parco urbano, ma un parco agricolo dalle notevoli particolarità ambientali ed ecologiche. Niente auto o altri mezzi a motore, di libero accesso si percorre solo in bicicletta o a piedi, attraverso stradine che si inoltrano nella campagna. Il parco offre la possibilità di itinerari più o meno lunghi tra campi coltivati e grandi praterie, boschetti, siepi e filari di gelsi, muretti a secco e argini lungo il torrente Lavia. Il valore naturalistico è elevato e risiede nelle estensioni dei prati stabili naturali, utilizzati da sempre solo per lo sfalcio dell'erba, che conservano quindi una flora e una fauna ricche di specie. In ogni stagione i prati cambiano aspetto e quest'anno la siccità influirà sulle fioriture, ma solitamente a maggio appaiono tra le tante piante le prime orchidee selvatiche, i narcisi bianchi profumatissimi e le margherite. Più avanti troveremo i gladioli palustri e le filipendule che ammantano di bianco le superfici prative. Saremo accompagnati da ronzii, di api, di canti di grilli e voli di farfalle. All'interno del parco, che comprende due biotopi sottoposti a tutela per la loro biodiversità, si svolgono, e questo è molto importante per la manutenzione, attività agricole che rispettano l'ambiente. lungo la strada campestre, detta la Trevisane, si vede un cippo con una croce in ferro. Una tradizione vuole che qui, nel 1350, si fermasse il corteo con il patriarca d'Aquileia, Bertrando, rimasto vittima di un attentato, sepolto poi nel Duomo di Udine. Nei pressi si vede la grande quercia, il Rol centenario, che si innalza maestoso al centro di un prato che è una vera collezione di specie vegetali. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento stabile nel comparto cerealicolo, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,50 e 16,70 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 36,80 e 37,10, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 15,90 e 16,40, il frumento tra 19,70 e 20 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 20 centesimi e la soia di 4,40 euro al quintale. Scambi ben intonati all'ortofrutticolo di Udine, compreso in equilibrio. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 0,90 e 1 euro il chilo IVA esclusa, le zucchine e le melanzane tonde tra 1 e 1,30, la scarola riccia tra 3 e 3,30, i finocchi tra 1,20 e 1,30, i cavoli tra 1,50 e 1,60, il radicchio rosso tondo tra 1,20 e 1,30, quello di Treviso precoce tra 1,60 e 1,70, gli aspargi tra 2,50 e 3,50, i kiwi tra 2,60 e 2,80, le fragole da 5 e 6 euro il chilo. Settimana discreta nel settore della pesca per le condizioni favorevoli del tempo, con prezzi stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, vengono quotati da 20 a 30 euro il chilo IVA esclusa, le ombrine tra 13 e 28, i latterini da 7 a 9, i gamberetti da 10 a 15, le sogliole da 11 a 26, le mormore da 8 a 15, le seppie da 10 a 15, i moscardini da 6 a 13, le capesante da 10 a 13 euro il chilo. Per quanto riguarda il prezzo del latte naturale di vacca Franco Stalla, la Commissione della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, rilevati in videoconferenza, lo ha quotato a 36 e 33 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Aprile si è concluso con l'arrivo delle piogge negli ultimi giorni, che hanno finalmente bagnato la terra riarsa della regione. Una siccità così prolungata non si era mai registrata in questo periodo dell'anno, almeno a partire dal 1961, segno evidente di una mutata circolazione atmosferica. Le piogge sono state per lo più moderate in pianura, più abbondanti però sulle zone orientali, con alcune località dove il cumulato è stato anche importante, come a Capriva e in genere sul Collio, dove sono caduti anche più di 80 mm. Ora il tempo è tornato stabile, con correnti settentrionali più asciutte, e rimarrà caratterizzato per gran parte della settimana da cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove nei pomeriggi saranno possibili locali rovesci o temporali, specie mercoledì e giovedì. Mercoledì in giornata è attesa bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, mentre negli altri giorni sono previsti venti a regime di brezza. Le temperature rimarranno vicine alla media del periodo, con massime intorno ai 20 gradi sulla costa e fra 22 e 24 gradi in pianura, valori decisamente gradevoli, rispecchianti a quelli propri della mezza stagione. La tendenza a lungo termine, dopo il prossimo fine settimana, è ancora piuttosto incerta, ma il possibile avvicinamento di una depressione atlantica, forse anche piuttosto approfondita, sarebbe propizio a favorire piogge abbondanti. Sarà opportuno, come sempre, seguire l'evoluzione delle masse d'aria in arrivo e di conseguenza l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata odierna, vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano. Se al pluf il prindi mai, blave non si fai, ovvero se piove il primo maggio, non si fa mais. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.